cosa fai. Poi allora, vai, ti metti la benzina, te lo cambi lì alla distributore che c'è lì vicino a casa tua, alle 3:30. Ma sei conto di quale che c'è aperto? Senz'altro ci dovrebbe essere aperto uno che c'è qua di lì vicino, no? Vicino a un drive, magari quello è aperto là. Infatti. No, che devono portare questi microfoni a controllare, perché sono da controllare. M300 però sono da mettere a posto. Vabbè, quando vuoi. Però se c'è Giuseppe che ne conduce, la faccia è tutta a lui. Giuseppe, deve salire. No, lo so. Ma è senza paracchito di Lucchini, se non c'è niente da fare, salite da sera e fate una passeggiata. Così vi pigliate il caffè dopo. Ehi, non è che problema c'è. Non c'è problema, per quello. Per quello lì proprio non c'è problema, guarda. E l'unico pensiero... Va. Stai in vento, grazie. Io guarda, sono lì per lì, buh, a rischiarmi, ma... anche mi figlio è andato... Ma sai, perché se mi manca la benzina, poi stavo a trascinare il cazzo della moto, non mi va, Beh, se passi in via Milano... Fino a qua arrivi, dopo ti fai la discesa di a Carlo Felice, invece di fare il primo rifornitore che c'è, aperto il cipi di Renzo, che ce ne sono tre, uno dei tre dovrebbe essere aperto qua oggi. Va, messaggio, ci faccio un saltino. Tu c'hai apparati con 4 sminuti, sì? Mi sento che sono ancora qui, devo portarlo a Riano, sono ancora qua. Perché le prove le possiamo fare, no? Sì, che le puoi fare, tanto c'è la fai più guadagnino, quindi le altre cose le possiamo fare più. Ma mi sa che ci faccio un saltino, beh. Mi sa che ha preso il fornitore che c'è qua, sì. Sono due macchine e due rompi, se non mi ricordo, sapete che guardo lì. Io penso che lui non è andato a mangiare e non ci è andato lì, aspetta no. Capo, guarda, poi mi dai conferma. L'automatico aperto, ho visto, sta bussando con l'automatico. Poi ci sono due macchine che stanno dal basso. Lui l'automatico aperto, c'è anche lui comunque, lui c'è la macchina parcheggiata nel fianco, deve essere lenta. Solo bene, è aperto solo l'automatico, poi l'autolavaggio c'è aperto. Allora già ci faccio saltino adesso, Antonio, così controlliamo i microfoni, cosa dici? Oh, qua sali pure, già non c'è problema, adesso chiudo la porta della cabaretta che c'è il cane, se no si mette a pagliare quando suoni. Kappa, va bene, dai, faccio saltino adesso, dai, 2 minuti così controlliamo, sto arrivando Antonio, ciao, arriva lunga se sei ancora in ascolto, Hai tutte le migliori, dai, ce la riascoltiamo più dopo se coincide. Dove sei già uscito? Ok, Bobo, sto arrivando, tanto è un tiro di schiocco da qua, Chiaro, sto. È vicino, ma se fai via Milano sei già vivito. Sono manco 2 chilometri, se ci arrivi piano piano. Kappa, sto salendo, allora così guardiamo questi microfoni che vediamo di tirarne fuori qualcosa, dai. Va bene. Vivo, Ciao, momentaneo, sto arrivando. Via. Chi è? Buonasera, Antone. Ciao, Mario, sono Tuni. Rottone, e te Minara? Sì, freddo che fura. Vuoi un momento? Cosa vuoi? Prendiamo il tempo come viene, Antonio, non ci sono problemi. Ho stata una giornata senza vento, sempre stata una giornata calda oggi, poi avevo 23 gradi, invece che questo vento luminoso di maestrale, che rinfresca l'aria. Ma l'ha annunciato, ho sentito le previsioni del tempo anche stamattina, dice per il mese d'aprile ci abbiamo queste situazioni qua, oggi è un po' di freddo. È tempo suo, adesso a maggio c'è un caldo da trappare, qui tutti in mutande usciamo. Io meno male che ancora c'ho a disposizione le spalliere del letto, se dovesse nevicare due ruote di cubo, una spalliera a un piede e una all'altra, me ne va a lasciare. No, e cosa vuoi? C'è quello che piace la caccia, c'è quello che piace il mare, c'è quello che le piace a ubriacarsi. Me l'ho studiata così. Ogni volta che nevica, le spalliere del letto, uno piede e all'altro a sciare. Fai bene. E cosa vuoi fare? La vita è fatta così, uno si arrabbia come può. Chiaro credo. E beh, tutto è bene in casa? Tutto bene, tutto a posto. Io così, io ho mia figlia, me l'hanno ricoverata avanti ieri, si è sentita un po' male. Ora è uscito questa specie di furuncolo sotto l'orecchio, più andava e più si gonfiava questa cosa, e così che avanti ieri sera non ce la faceva più, mio figlio l'ha caricata in macchina a mezzanotte, l'ha portata al pronto soccorso e me l'hanno ricoverata. Adesso dovesse fare un po' di analisi. Ora appunto qualche patataccio, sono micidiali quel caso di animali brutti. Quando ci siamo stati a Giarossa che c'è le campagne sporche, qui non è mica pulito, si andinano di lì e va con una specie di fungo, va con una pizza. Si trovi questo funcolo grosso, vabbè mi ha fatto, 2 anni fa mi ha dato la febbre, me l'ha dato. Per 4 giorni, febbre 38-39, ma con la cosa faceva la febbre. E sono andato quasi un mese dentro al letto, sono andato coricato per qualcosa. Guarda Tore, io ho un furuncolo, almeno una 40 anni, o qualche cosa di più. Ha incominciato come una testa di fiammifero, piano piano. Se lo vedi, così grande quanto più di un cucchiaio grande. Ah no, il cucchiaio. Così che sono stato 7-8 volte ricoverato quando mi passavano i controlli, me lo toccavano e facevano le visite, e questo furuncolo, così ce l'ho, più andava e più si ingrossendo, però non mi fa male, mi volevano operare, me l'ha detto, ma li fa male, no, e allora lasciamo stare, no, di operarmi non mi opero, ma si lo vede, quanto ti sto dicendo, è un po' grandetto adesso. E papà ce li aveva, una volta si era operato qui furunco. No, l'ho fatto un po' veloce me. In via di San Pietro. Alla cosa. Papà si era tutti, tutti quanti. È stato quasi 3-4 giorni ricoverato lì su, capita. E poi ho visto che era tranquillo. Spera sul telefono. Invece un po' di anni fa mi era uscito sulla testa, piccolo, andava e si ingrossava, però non mi dava fastidio. Tutta una volta, allora facevo l'ultimo lavoro che tu sai che facevo, vado lì, mi alzo la sera verso le 9:30 perché alle 10 dovevo prendere servizio, vado in bagno, mi tocco e si era scoppiato da solo. Automaticamente mi ha portato mio figlio all'ospedale e alle mezzanotte mi hanno fatto l'intervento e via dicendo, però non mi hanno ricoverato. Mi hanno detto venga domani mattina che continuiamo la questione, hai capito? Vabbè, Maria, sei morto. Adesso ci guardiamo un po' di TV. Break. Channel 5. Potrebbe misurare stazionaria. Allora, devi andare col tunnel, mi sembra, a fondo scala, e poi schiacciare l'SVR di misura di trazione aria. A tu. Dimmi. Stavo scendendo, adesso lo scendo bene. No, va benissimo, qualche... Minimo sì, con il coso sì, con le metro 100. Ma tu che stai arrampato invece mirai. Oh, questo non l'avevo prestato, avevo un amico. Ehi, qualche... Ehi, non è prestato un amico questo, non è mio. Gamma, gamma. E me quanta ce l'hai, Davide? Ecco c'è, a tu. Sì, sì, l'ecco c'è. No, va bene. Davide, è fatto? Ah, che devo metterlo al centro banda, sul canale 20. Adesso non me lo ricordo, c'è un altro tasto, c'è. Cioè. Mi sembra si chiama Re. Non me lo ricordo bene, ragazzi. Devi portarlo a fondo scala, quel coso, quel pomellino, tu e poi devi schiacciare il Re. Aspettando che ti mandino questi transistor, non so che cosa, scena della pompura, perché se ce n'è uno che se ne intende è proprio lui, capito? Altre persone non bisogna mai dare roba se non sono competenti. Io vado, vai. No, io mi fido, poi ci conosciamo la vita un po' pure, così che non c'è problema. Già la va bene, non c'è problema, dai. Quando fai lavori fa bene, dai, non mi posso lamentare, perlomeno, fino a oggi no. Ah, io qualche cosa l'ho dato sempre, l'ho dato a lui lo sa, e sempre mi ha accontentato, e sempre stanno funzionando bene. Va bene, già lavora bene, deve lasciare il suo fatto. Beh, è logico, ognuno sa che sua, diciamo noi. Sì, è proprio vero, guarda, così è. Beh, ascolta, io vado a prendermi un buon caffè. No, mi sono appena alzato dal letto, no? O forse come ero coricato la occupa, però si sta imbiancando la voce. Sì, sta migliorando, va. Mi ero buttato nel letto senza coprirmi, capito? E ho preso un po' di freddo, e mi sono risultato. Io vado a prendermi un buon brasiliano, Maraguto. Ehi, Mario, un buon brasiliano, dai, e se coincide più dopo, eh. Io poi magari ti accende, tanto devo fare quattro chiacchiere con Gio Maria, si affaccia, se non scesa a campagna, e passiamo un'oretta. Sarà come quel segnale che ho io che mi aspetta dietro l'angolo, no? Alla grande proprio. Bisogna pensare di tutti, qualcuno magari che ce lo sta telecomandando mi, e come dice il buon Mario, la montagna ne scenda. La verità si dica, non è per bestemmiare, ma la verità si dica, piova su a casa sua. Papà. Io non sono capace a bestemmiare. No, ma poi quelle cose fanno male. Va bene così, dai. Poi se gli serve una mano per andare a raccogliere acqua, già ci andiamo noi con un'autopompa dei vigili del fuoco. Appunto, per essere per un pochettino così. Bravi, non molto, ma per un po'. Venite, ci chiamiamo anche Falchetto e ci dà una mano. Ah, non c'è problema. Volontariamente. però se questo qui magari ha percepito qualcosa ieri, ha provato a attaccare qualcosa, ma strano comunque, perché 7 giorni su 7 era presente. Non è quello, soprattutto sabato scorso era molto presente. E poi da ieri sera che è successo così, ma io, perché lui ha detto fax, ma io me lo stavo mettendo, poi non l'ho messo, mi pare un po' più chiaro. Adesso vediamo stasera, se stasera non c'è, guarda, io sono già fiducioso. Beh, io te lo auguro che sia così, se no altrimenti procedi a tutti dimmi, tanto a te non ti avrebbe guardato nessuno in faccia, quindi non guardare nessuno in faccia. Beh certo Pierpa, aspetta che stacco un attimino che c'è mia moglie a portafoglio in mano e devo approfittare per farmi restituire quei 10 euro che mi deve. Trovato un riccio, mi ha detto, dentro il portafoglio. Non era possibile. Tutto pieno di punture nelle dita. Non ti so perché, sono sempre così veloce. Se presenti un monitore da 100 euro, hanno sempre la mano con la molla. Però la molla non torna mai indietro, capito? E cazzo. Ma non sono d'accordo. Giuseppe, qua non sono d'accordo, eh. Su cosa, Pierpa? E su quello che è stato detto. Quello è poco ma sicuro. Non sono d'accordo, che c'è un braccino corto. Lo so, non sono d'accordo, però noi lo sappiamo. Braccino corto per l'aremi, se ha ben inteso. E allora? Ma fa figlia, tipo Olivia, il braccio di Olivia che si allunga alla grande. Io no, non ne ho bisogno, che c'hanno la specchia, la spinopolvere, la dita. Fanno così. Ci arriviamo. Su che si rulla. E meno male c'è Veronica lì dietro nel seggiolone che se la sta ridendo. E ha capito proprio al volo, eh. Bravo. Salutone signora, anche a lei. Ricambiate al 100 da parte di tutte e due, KK. Da Rogero. Marchetto, tu sei d'accordo? Sì, alla grande. Sono poco, alla grande. Confermi che è così. Che hanno la spia polvere alle dita, ma non ci hanno mai la molla per tornare indietro. Confermato al 100 per qua, un rischio di tutte le donne. Mi sta scalpitando in macchina. Senti, se poco poco ci prestano 5 euro, dai 2 giorni non glieli dai, dopo ti dico, ma mi devi dare di più. Perché subito si muove più. Con gli interessi? No, no, chi era quello che aveva moltiplicato i pesci? Non me lo ricordo adesso. Sono così e moltiplicano subito. Mi pare che quello che ne aveva moltiplicato è una persona che sta all'ultimo piano. Anche a me, ma non vedi, mi ricordo che era uno che stava alla somma. Aveva moltiplicato i pesci e il pane, ma... Le donne sono come lui, mi moltiplicano subito. Ma va Giuseppe, in macchina lì, ma insomma anche se c'è contro le femmine, vera? Ma no, non è che c'era contro le femmine, c'era contro di me. So che andiamo direzione Platamona, sì, mi ci hanno imbarcato me. Io anche a me mi ci hanno imbarcato, io sono tutta la sera aspettando una persona e mi sa che ho perso le speranze. Caragava. Manca farlo apposta, tratta se stesso di femmina. Addirittura. Che con gli appuntamenti sono sempre in gamba, eh. Quello è poco ma sicuro. Dopo pranzo andiamo, grazie a Dio. dice che abbiamo un telefono azzurro. Ho chiamato sotto, Come fai che? Attenta di stimolarti. Cappa. Ma lì, guarda, ci passo molto lontano oggi. Adesso mi prendo la butti-butti, faccio fare una passeggiatina così e poi su che si rulla. Veronica sarà soltanto, quindi, Oh, figurati che gli ho detto, dobbiamo mettere benzina a me nella macchina, tutti senza soldi sono. Tutti non li cercate, così è. Sì, tutti quanti, che ho chiesto anche a Veronica, niente da fare, anche lei ha detto misma. Beh, ovvio, Veronica si sta conservando sul ridere per andare a Luna Park. Positivo, parole sante quelle, parole sante, anche se poco fa mi ha detto, quando avevo il mic chiuso, mi ha detto dille che io invece sotto te li do, che questo, quello e quell'altro, non è vero. Io mi sono giocato l'aperitivo mi stasera al mare, ha detto che Lisba taglia tutti i fondi. Votazione di spicco, io voto per Billy Gavelli. Ma magari per Cicchetto. Ma io voto per me, i carini. Io lo vado direttamente. Cosa fai tu? Non ci vado direttamente a votare, buonasera a tutti. Buonasera, e mi pare, mi... Davvero, mi pare, ma già fai un po' così. Ma io la verità ce l'ho qui da 5-6 anni che non ci vado più a votare. Buonasera a te Massimiliano, ben sentito e cordialità. Avanti Falchetto per Massimiliano. Saluto Massimiliano, ben sentito. No, Falchetto. Ciao Massimiliano. Falchi, ma stavi chiamando Pomponio poco fa. Capo. E te passo successo. No, nulla, nulla. Era anche per dell'apparato, capiti? Con quel microfono mi segni il sindaco di Arda. Io lo sto per dire, si da quel fatto nuovo. A me non piace. Un attimo il telefono. Quelli sono i carabinieri. Ah? Stanno chiamando i carabinieri. Positivo Massimiliano, direzione Frattamona per far prendere un pochino l'aria alla bimba. Positivo. Allora io dico, ma dove sono? E dove Massimiliano? Sono in BM. E sono in BM? Ora non dico, con l'aiutino rosso lì. Ah no, no, ancora no, ne ho di belle cose da fare, devo passare ancora il cavo. Il cavo dalla batteria, perché mi hanno detto di passare un cavo grosso. No, grosso, quanto è meno, vabbè. Perché quelli che io qui sono abbastanza fini, non sia che me li sciolga, mi hai capito Massimiliano? Ma io ti dico una cosa, allora io per il baracchino li ho messi da 1,5 e per l'aiutino da 2,5. Così farò io adesso, appena riesco a far coincidere qualche giornata, Massimiliano, perché guarda, io mi devo proprio, se mi metto per farla bene la cosa. Guarda, ma poi gli ho messo un portafusibile lì alla batteria, e gli ho messo di quelli, l'ho preso a Fusaro, cioè quelli che, come quelli della macchina, va? Uguale a quelli che si mettono nelle vetture, così. Un portafusibile così li ho comprato. Così non era 50. E io ho messo la batteria. Poi prima di arrivare al baracchino ce n'è un altro. Ma l'ho preso anch'io da Fusaro, quelli che hanno il cappuccetto nero, Massimiliano. Beh, questo c'è la trasparente, lui è tutto nero, il cappino è doppio fusibile trasparente, ma è uguale. E sono quelli con i due piedini, e mi pare che siano per questa storia qui da 5, è vero Massimiliano? Ora io, vabbè, per il baracchino ce l'ho messo da 2,5, perché lo devi mettere un po' debole, capito? Ma se succede qualcosa brucia lì, e quindi vuole un po' debole, per l'arco ce l'ho da 7,5. Cappa di positivo. Perché in genere quando lo compri con l'altro aiutino te lo danno con quello in vetro, capito? Con quel fusibile in vetro, quello normale, come c'è la barchina, c'è un fusibile da 6 ampere. Io gli ho messo la 7,5, la batteria. Sì, ma vuole così, perché anch'io ne ho messo uno all'ingresso qua, proprio... Tanto bene, questo passa su 10. Un altro via. Dentro al cassettino della macchina, quindi più protetto di così. E a voi, chi è che voleva entrare? Mi volevo solo volare. Ah no, è Falchetto che ha detto a Pompone che andare su 10. Ah, ti ho pagato. Ciao Luca, mi hai sentito anche a te. Infatti, ho sentito tutta una cosa leggera, ho detto, ma... Ciao Massimiliano, anche a te saluti. Vedi io, qua l'ho sentito io, cioè l'ho sentito io, a Falchetto di spostarsi. andava. Quanto è bella la Sardegna. Dice, è bella ma è fresca, molto fresca. Oh, sì, quella la vera, il sole sta benissimo. Mi ha fatto la grande. Vabbè. Ma non sono brutto questa settimana, eh. Ma sono brutto. Pioggia, non so se è giovedì o mercoledì. Cosa pioggia in questo momento? Adesso pioggia addirittura. Positivo. Quando è per martedì fare per fa, o mercoledì? Ho messo acqua, da domani fino a venerdì. Da praticamente comunque domani ho messo più maestrale. Nuvoloso dalla sera, piogge fino a venerdì. Una bella giornata di oggi. Lo sai, per non fare le male durante la settimana che lavora, no? Vabbè, noi non lo sai così. E però la signora poi qualche mai a rompere il canto, a noi ci danneggia parecchio. Comunque, accettiamo quello che viene. Perché lo sai cos'è il padre, quest'anno diciamo che ha fatto una bellissima stagione, pochissima acqua, e quindi ogni tanto ci vuole una passatina, capito? Pochissima acqua, insomma, la giunta è stata ventagliosa, sì. Infatti, ma io sono di diritto. Cambiando la cucinata da domenica, domenica che ce la chiamati a me, mi insegna a fare i babbè. Avanti vela per Giuseppe K, e qui nella pronti a prendere la discesa di San Michele, non so se riuscite a copiarvi ancora, eh? Io già ti ascolto ancora. Io qua la grande, 9 più 20, sono parallelo a te perché sto andando alla Budibudi anch'io. K di positivo, ciao Luca, copi, sei copi Giuseppe. Ciao Giuseppe, sono ti ascolto, mi confronto prima più basso, ma ti ascolto, non c'è problema. Tutto Roger, domani è un'altra nuova settimana, cappa. Vabbè, 3 giorni, un martedì, mercoledì, finisce il mese, poi entra il mese nuovo, giovedì. Vabbè, siamo... la prossima settimana è festa, no, mica lo sapevo, e si diventa martedì, cioè, siamo in, come si dice, ma mi do la parola, Paganino, no, siamo, vabbè, lasciamo così, sono riuscito ad alzare, ho dormito, sono impollato un po', poi lasciamo tutto l'altro. Lunedì dagli angeli è il lunedì prossimo. Pasquetta. Esce l'aprile. No, quello è il primo. Cappa, è il primo, giovedì, esce l'aprile. E 5 siamo a Pasquetta. Papà, noi per Pasqua. E lunedì è Pasquetta, lunedì dell'angelo. Papà, cava. E non vi andate di bello? Io? Sì. San Francesco di Nuoro. Io? Cappa. Che bello. Io di Pilare, ma non mi. Quella località è messa al bosco, San Francesco. Ma noi adesso vediamo, là, se proprio fa bello, ma deve essere proprio una giornata bellissima, se no volevo andare a San Leonardo. Bello anche lì. Barbecue con la tortilla, le panche per sederti, quando ritorni ti prendi acqua. Ebbene, non lo sei mai stato a San Francesco di Nuoro? No, negativo. Ebbene, è quello lì fatto lo stesso. Ci sono i posti a sedere, barbecue, tutto c'è. Così è bello, sono bei posti là. del terzo pettine in questo momento, con la speranza che qualcuno mi tiri fuori. Io ti ascolto sempre tranquillo, tranquillo, 9:05, e ti ascolto poi anche di radio. No, stavo dicendo, devo andare a Pasquetta. Ma noi stiamo decidendo, Massimiliano, perché sicuramente, secondo me, il suo rimborsimento su Austini, in mezzo alla natura, barbecue, fontane, forse a sedere il granito, panche e tavoli, siamo in mezzo ai daini, c'è la forestale, cioè abbiamo tutto a portata di mano. Oddio ragazzi belli, dai, io sono arrivato qua a trovare un amico, siamo scesi, sono arrivato, vi saluto cordialmente, se cucina ci sentiamo un po' più tardi, dai. Buon proseguimento di giornata a tutti, ci sentiamo, buon lavoro a chiudere, ciao ciao. Positivo è Campalogna, dai, ce l'ascoltiamo la prossima. Buon proseguo di serata e buon tutto, dai, avanti, Guariano. Ciao Massimiliano. Ma più tardi alla prossima, ci sentiamo, ciao ciao, avanti Giuseppe. Ciao Massimiliano, e buon QRT e ci sentiamo presto, vai, appena coincide noi già ci sentiamo sempre qua in radio, ciao Massimiliano. Ciao ciao. Giuseppe, è notata come mi stai ascoltando, dice la coordinata, dove ti trovi? Centro commerciale, sono piatto in questo momento, ti sento bene, forse è chiaro. Centro commerciale fatta ora? Positivo. Andare. Aspetta un attimo. Bene, bene, avanti che fa. Ma neanche a dirlo, guarda. un picco. Vabbè, poi ne sente la ascolti, Giuseppe. Attento Mario, casa mia, ma a casa mia c'è una signora antenna. E capo, sarà sicuramente colpa dell'antenna, comunque. Un paio di volte ho portato il paracchino per scritto Bustrana. Pappa. Sì, lo so, ma casa mia, Ma dimmi una cosa, qual è il rubico fuori il... aspetta, il lavoro rosso? Pappa. Il microfono Vreunga. A questa radio se la feo. Ma nell'arco si faceva schiattare. Ma non mi piace, senza offesa, Non è che ti vuoi mettere, non mi piace. Ma assolutamente. Cioè, magari dopo non mi piace il microfono. Fa calendare, fucci. Sì, vabbè, c'è una radio, si dice all'altra, no? Vabbè. Mi sono spostato un attimino alla radio, non ho sentito, che devo... Ma che ne può fare il comando? Io sono. Buon pomeriggio, avanti, buonasera Luca. Qui Massimiliano, produttore. Capo. Quindi sto controllando tra il comando, via. C'è la molle. La batteria una è arrugginita. Ma se la sostituisco, vediamo un po'. Adesso ce lo buttiamo. Però compriamo nuovo. Casino. Tutto a me tocca fare qua, tutto a me. Ma. Poi, io ne ho detto tu, mi avevate di digitale terrestre. Ah, c'è anche lo so qua, va. Ma che va bene, una. Sono un po' deboli comunque. Vabbè, io perché mio figlio li mette dentro la, il forno a microonde e non reggono. Quattro ne ho cambiati in un mese. Così, ma è piccolino, non è grande, è piccolo. Ve li mette dentro il forno a microonde, poi accende e lo fa andare a piena potenza. E vedi fuoco e fiamme, scintille e quant'altro. Fatelo in un mese, non ti dico altro. Disperato. Ho avuto a cambiare anche il forno a microonde perché poi si è rotto anche il forno a microonde. E se ne ha preso uno con il blocco per i bambini. C'è una combinazione di tasti così non succede. Però da quando l'ho cambiato non l'ha più toccato. Ma dimmi te. E tu, scusa un attimino, vuoi far comprare il Papu Corno? Vuoi dire, ma te l'hai si fa Papu Corno? Lascia stare che gli piacciono anche quelli. Ah, se bisogna guardare questo bambino che ne è uscito. Ma è tu, non è piccolino, che li peggio, vedi? E noi che ti chiamano i bambini, eh? Massimiliano. Allora, io un po'. Hai detto, è diverso. Vabbè, adesso appiamo, vediamo un po'. Buonasera. Buonasera. Buonasera anche a te, Luca e Massimiliano Archimede. Buonasera, mi hai sentito. Beh, Luca, ancora brutta questa radio. No, adesso ti sento, però non è spinta. L'ho abbassata perché c'è la televisione accesa, c'è il bambino sul palazzo, si sente anche la mosca volare. Falchetto mi è sembrato, non vorrei sbagliare. Ah, Claudio, Ah, Claudio, non ho guardato lo Smith, scusa Claudio. E che cosa? Un nome vale l'altro, non c'è problema. Buonasera a tutti, buonasera. Sto guardando un'occhiata qua che ho ormai 2 mesi che non mi servono questa serie, la carità di Gesù Cristo, la polvere che c'è, normale che in settimana già sta con tutto. E allora, come state, bene? Io sono ancora facendo il bambinaio perché il piccolino aveva la febbre e sono dovuto rimanere a casa a fare il bambinaio. Che il grandetto è in chiesa, che stanno facendo la preparazione per la comunione. E io sono rimasto qua, ne ho approfittato per ultimare 4:40, lo stavo provando. Perché mi mancava da tarare lo smitter e poi il controllo lì per il ROS, perché segnava un po' di più rispetto a quello che era. Adesso è a posto, infatti l'ho richiuso e sembra che stia andando. Io la giorno bene. Ciao Luca, buonasera anche a te. Cesh, polvere che c'è in questo posto, per carità, non si può più stare. Spero entro la prossima settimana di terminare tutto la sciogra a pezzi. Mi ero addormentato nel divano. Sono stanco, morto. E vabbè, piano piano, lui vabbè. C'è tutta questa barbana. Le antenne, i cavi, che è l'ultima cosa che farò. E' bella lunga, che si fa attendere, aggiustando. Ehi, a ciao qua. Io gli sono un po' al comando. Praticamente devo mettere le batterie, una molla è arrugginita. Vediamo. Io sostituisco. E poi non c'entra niente la molla. Ma... questo è un problema di batteria. Decisamente va. Passo l'app, vediamo un po'. Comunque la sostituisco. E uno. Ah, ecco, due. Che è proprio la parte. No. Ma no, no, non c'è bisogno neanche di. Saldare, lo sai. È l'altra. Riprendete voi, dai, e qua. Se lo volete spostare non c'è problema, Io non ho cane preferito, non mi interessa. Se è occupato sto cane non lo so, chi c'era, chi non c'era, io ho acceso adesso per scaldare un po' le radio e basta. No, attimo, si vediamo, c'era qualcun altro qua? No, sicuramente non lo so. Io ho acceso proprio a salutare Luca così al volo. Solitamente c'è sempre, infatti mi ha risposto. Non saprei. Luca, l'ho aumentata un pochettino la radio, così la vuoi. Vai, prova l'anguria, quando è matura. Adesso inizierà a piacermi una radio. Vabbè, sono io che lo spingo, certo, lo lascio tranquillo, normale, non frega niente. Allora, lo provate in banda laterale, lo provate in laboratorio con gli strumenti, arriva a picchi quasi 200, allucinante. A 44. E allora? Poi di solito sono così, non da vanno, viaggiano, e io devo attaccarle per ultimo queste, anche se adesso le copro perché c'è troppa polvere, sto facendo troppa polvere tra smontare, fare, ballare, eccetera. Sono poi toccato che aprirle e soffiarle. Sono anche un po' rauco, cazzo, madonna santa. Però l'ultima cosa che devo fare, perché sto aspettando a Giulio che appunto mi telefono per vedere se è pronto tutto il ripiano nuovo, tutte le basi nuove sto facendo fare, perché se lo vedo c'ho la stanza proprio mia adesso finalmente, e quindi devo fare cose fatte per me. Adesso domani inizio a fare il primo carico da qua, perché sino ad oggi stavo solo facendo da Portobello, svuotando tutto. Adesso domani finalmente inizio, c'è già qualche armadio smontato, un bel po' di roba imballata, iniziamo a viaggiare da qua su, e così una volta che mi sistemo un po', insomma, che mando avanti un po' i lavori, mi dedico anche a quella stanza, perché sto facendo l'impianto luce che praticamente va sopra il piano e piazzando i salvavita sotto. Adesso vediamo un pochino e poi ci dedicheremo a altro. Ti volevo dire una cosa, mi sono dimenticato. Ricordi che c'è quel trasformatore 220 qua, quando, vabbè, poi l'ho messo dentro una scatola. Poi quando ci vediamo controllo a vedere che cos'è. Già non c'è problema, già lo controlliamo. Poi c'è da domani. Devo fare l'apertura di alcuni lavori. Poi questo cambio di orario mi ha completamente sciolto. Ma di mettere. Ci voleva cambiare l'orario adesso. Vabbè che farà buio più tardi, ma è la rottura di scatto. Poi oggi non sono potuto uscire per il bambino che non stava bene. Perciò sono un po' anche. L'imbecillità a casa, che non sono abituato a stare fermo così, vabbè. Ne approfitto per dire che c'è un riposo. Senti. Che poi c'è la febbre. A me mi stende a letto, a lui con la febbre l'ho visto, pensando a fare all'altra. meglio così. Sì, lasciamo fare, sono malvazzi. Quando si rincoglionisce, quello lo faccio adesso. Ok, non mi ricordo cosa ti dovevo dire. Boh. Ah, quei faretti Massimiliano, che praticamente scendono dal soffitto. Qua sono cavettini d'acciaio con poi il cavo praticamente che tira, e ce ne vanno tre a bella distanza, scendono, sono regolabili, sino a quanto scendono quei faretti? Dipende dal modello, ci sono quei modelli che ti scendono fino al tavolo, dipende da quale modello hai. Poi solitamente sono i cavetti, quelli di sostegno, sono anche quelli di alimentazione, che vanno a bassa tensione, se sono quelli lì. E dunque, praticamente fanno sia l'uno che l'altro. Dipende dal modello qua, di quale hai scelto, capito? No, non ho scelto, li ho visti montati, però non mi ricordo dove. L'esposizione ce li ho visti, ma li ho visti già montati da qualche parte, ma non mi ricordo dove. E appunto volevo sapere se erano cavettini regolabili, se sono bellini, piazzati, insomma, qualcosa del genere, ecco. E dove li trovo? Se li trovo lì al Brico, o conviene andare a prenderli alla Elcom? Io Blicco, che hanno una buona esposizione, ma normalmente il suo figlio, aspetta che il suo bambino mi state freddando la dispensa, arrivo subito. Sì, ok. No, sono qua io che sto risaldando. Ehi, io già sono qua anch'io, ma più tardi mi tocca capo volante, perché ho già staccato tutta la parte del computer, metto al limite il capo volante e accendo il computer. Questa è l'ultima cosa che devo fare, se no mi rimangono in mezzo ai piedi e si graffiano, invece le tengo qua nel computer. Mi serviva spazio per appoggiare roba in quella parete, quindi ho staccato tutto. Uso il box, se no altrimenti non posso. Vabbè. Diverse, no, non ti fermo, va. Cioè. Ai ai ai. Come facciamo qua? Facendo. Ho capito cosa stai facendo, ma non so cosa stai facendo. Ok. Hai capito, Massimiliano, cosa ti ho detto? Allora, tu di costruito cosa sto facendo? Sto cambiando la molla, mi fa due come le batterie. C'è la molla, è arrugginita, non fa contatto. No, non vanno bene queste qua. Senti, è più distante. Che cazzo. Ma no, che sia più distante allora. Non è che vada bene. Cerca di metterla giusta, se no poi è un casino. Ci proviamo qua. Rieccomi. Mi stava... già con le pallelle in mano. E buttano la pasta, è allucinante. Allucinante, sono qualcosa allucinante. Allora preparo la cena, no? Ma adesso mia non c'è. No, non c'è perché è in chiesa con Giacomo e hanno la preparazione alla comunione. Ma non l'avevi detto. Se vuoi c'è la Massimilia, vabbè, se la vita posso usare questo, non c'è problema. Via. Possiamo mettere un altro sotto, esce una cosa, avrei preferito, so che non ho tempo, adesso, può darsi di sì, può darsi di sì, non è che non ho tempo a stare appresso a questa cosa qua, sarà l'ultima cosa, quindi... mi servirà subito, se no avrei voluto fare un bel uno di quei guardetti da attaccare sotto al muro con salvavita e quattro prese. Ce ne ho quattro più quattro. Non avrei voluto fare così, direttamente da argomenti salvavita da disinserire al momento in cui non uso la radio. C'ho gli altri due, quella 4 più 4 con l'interruttore, però avrei preferito farlo così. Vabbè, così è comodo, perché ti viene meglio. No, io ho fatto con la ciabatta apposita che mi va a comandare gli alimentatori. Poi quando ho terminato, stacco la ciabatta dall'interruttore bipolare e mi disalimenta tutto. Sì, sì, così ero io. Cioè qui sono qua adesso in questo momento, e così sotto c'è l'interruttore sotto, all'inizio dell'interruttore c'è quella generale dove spengo praticamente tutto, voglio farlo così, ma era per evitare di mettere salvavita fuori dalla scatola, capito? Ho voluto fare una scatola con salvavita già inserito e più le prese, invece non le faccio così com'è, dai. Non fa niente, non c'è più il tempo, non c'è neanche pensato. Pazienza. C'è qualcuno con la portata, ma non è scimolazione, sente giusto un po' di alternata. Vabbè, lo puoi fare anche successivamente, puoi prendere quei quadretti carini, microscopici da appendere al muro, lo metti a linea di una presa, da lì ti puoi fare il quadretto. Io sempre che lo devo fare, qua pigrizia, basta di mettere lì a farlo e a sistemare le varie cose, cioè, poi già ci uscirà, farò qualche cosa, boh. Io fino a quando non mi viene la fantasia, rimango così. Vabbè, che tanto ho quel sistema già va bene ugualmente. Io devo separare le cose, ho fatto la linea per i PC, la linea per l'audio, la linea per gli alimentatori e così via. Le tutte cose già sezionate. Infatti quando devo spegnere spengo La linea degli alimentatori, gli alimentatori qua se sono a posto, non c'è problema, poi il resto continua ad andare, addirittura vabbè, il sistema del computer con la DSL e tutto quanto, quella l'ho messa sotto il gruppo di continuità, infatti quando si stacca il contattore perché magari va in sovraccarico, quello continua ad andare, ma è da 1500 e perciò voglia, ce n'è da tirare senza nessun problema. Luca, a che punto siamo arrivati? Sembra a buon punto. Quante cose, mamma mia. Ci vuole pazienza, molta pazienza, perché sicuro. C'è un casotto. Vabbè. Ma se lo prendiamo. E qua c'è la batteria che c'è arrugginita. Un attimo lo provo. Prova. 2 secondi, torno subito. Mi sta chiamando mia moglie Massimiliano. Vai, con il bambino, me la stiamo facendo l'anno. Non sta uscendo di modulazione, siete la portate con un po' di alternata, non esce di radio. Perché anche per gli altri, capito? Vabbè, così è. No, è una cosa più scocciante se torna a fare di nuovo acqua. Si scoccia tutto, scoccia. Capito? Tutto là. Ma se ne sappiamo che è poi così in questo periodo è una rottura di scatole. L'inverno ormai è finito e basta con l'acqua. Sì, sì, no, ho messo acqua. Così ha detto la TV. Comunque lasciamo aspetta un attimo, ci sono due albanesi questa rumba che si mettono in cammuti questi figli di buona mamma. Ascoltando, guarda, se non scappa. tieni conto che l'autoscolto da un baracchino, una radio così non è mai come un autoscolto, si chiama monitor, della stessa radio, ti sfasa un po', però per me stai uscendo anche troppo forte, non lo so, per Massimiliano, boh. Sì, arrivi bene, arrivi forte, Luca, va benissimo. Va benissimo. C'è un piccolino che gli ha aperto la penna di Gormiglia, davanti alla televisione, stanotto, era con il col piattino, panella, che è coltato lì, si è mangiato anche la penna, si è mangiato. Animiteo. A te, Luca. Senta, vada. Andavè. Tu figlio di un terremoto, eh? Un bel terremotino. Vabbè. Ma per telecomando funziona a posto, eh? Oh, iaia. Non lo so, sta qua. E c'è il nonno, mi sta stressando, qua. E poi, mi ha scritto ieri. No, non mi ricordo. Mi ha scritto, no, un nome. Ma adesso, ma non va per i contatti, non va per i contatti, meno male, perché sennò può stare a me. Ma non arrumo per i fatti suoi, lui sta sempre qua a dire e fare, perché? Perché vuole la chiusura, qua. Poi se io non la chiusura, cosa succede? Se funziona a tutti. Mi lascio accorto un po' di quella persona. Così, vabbè, è anziano, non è che uno possa dirlo più di tanto, però mi sono accorto che infatti è un po' così. Sì, ho detto anche ieri sera, del riposo, ma cos'è c'è? La stanza del riposo, ma cos'è? Non mi ricordo, comunque te l'ho letto. Ho letto un rullo che sta insistendo per avere una. Tutta sua, e vabbè, no, io adesso sistemo tutto, poi riprenderò la grande. Sto anche cambiando la linea del telefono, e quindi va bene. Ok, ma ci vediamo. C'ho anche il telefono là, ho anche il telefono, poi ti do il numero. Siamo al completo, non ci vanno manco di far vedere. Antonio, Falchetto, e tu abiti tu vicino dove sono io o più distante da me? Sì, io abito, dipende dove abiti tu. Io abito la torre, al palazzo più alto che c'è Carmonazzi. La torre di Via Malfa, quella che dà a Via Milano. La torre a 10 piani, il palazzo più alto che c'è. Ah, scappa, no, io abito di fronte all'ippodromo, vicino a Via Parigi, diciamo, vai. Sì, però non lo vedi la casa tua, palazzo, quello alto. Quello si chiama la torre, lui si chiama la torre. Io lì ero, e li sto riandando, a dominare l'universo. Vabbè, meno male che sono più in basso come piano, però le antenne sempre sopra vanno. Ah beh, quello è già vero, già. Ecco, mi dispiace, ci vuole più cavo, prima era l'ultimo, adesso sto scendendo al secondo. Quindi ci vogliono molti più metri di cavo, però li ho già ordinati. Ho preso una matassa da 150 metri di H1000 e si fa tutto nuovo. A proposito, ma ci viene, sai quanto mi ha fatto pagare l'H1000 dare al metro di un prezzo? 20 euro. Quanto? 20 metri, ma per 20 metri, 20 euro. 150 metri, non ho preso una matassa da 100 intera, è una mezza matassa, ma l'ha rotta l'altra parte da 50 metri. bene allora. Tu ci avevi detto già di me, di la verità. Come io sono fuggito da giù, tu sei fuggito da là e quindi stai venendo qua perché ci avevi nostalgia da questa zona. Allora, sto benissimo qua, anche la verità, però mi è successo che si è liberata la casa di mia suocera, inizialmente la stavamo vendendo, poi ci abbiamo fatto un giro di conti e non conveniva a venderla, e allora la mia moglie e col fratello sono messi d'accordo, l'abbiamo rilevata noi perché venderla per regalarla non va bene, e quindi me la sono riscattata io praticamente. E niente, almeno detto noi, uno per la tranquillità, ma non per le antenne, per le cose, non so neanche se ne metterò di antenna della 27. Monterò tutte le altre antenne sicuramente, ma sono ancora indeciso. Ma uno per la tranquillità, uno perché qua ho addirittura due garage, quindi spese su spese, posti auto, è un casino, quando arrivi in fretta non voglio mettere la macchina in garage a cercare posti di giro manicomio. Il problema è che qua fai tutto a piedi, lì purtroppo no, però risparmio una barca di quattrini e quindi se ritorniamo lì. Nostalgia, oddio, nostalgia, io ci ho buttato 23 anni, già lo sai, quindi mi è sempre piaciuta quella zona. Però per accontentare la famiglia ho fatto un passo, adesso devo rientrare lì, perché ti ripeto, regalarla a quella casa non fa. C'è una stanza in più tra l'altro di questa e quindi mi sistemo io bene bene bene tutte le mie cose, tutte i miei hobby e non disturbo nessuno. Ok, va bene. E niente, non voglio sentire Massimiliano se era un prezzo buono, perché io mi ricordo che lo pagai molto molto meno la Camille. Però non mi ricordo se non so se è un buon prezzo. Allora, un attimino in serva perché mi è arrivata una telefonata e non ho sentito nulla. Ho detto Massimiliano per 150 metri di H1000, quello morbido è a doppia carta, quello centrale non filare ma in rame rigido. Il cavolaccio sto usando io adesso qua. Mi ha fatto pagare la una tassa da 150, quindi una da 100 intera, una da 50 metri a 3,50 al metro. Ah già, è buono, si trova anche di più, si trova la famiglia. Ah già l'hai pagato bene. No, perché mi stavo un po' lontano tra l'altro. Mi sembra che sia, ma guarda cavolo che non è così, prova, informati. Comunque io te lo spedisco lo stesso, ma poi infatti mi ha detto sì, una volta che poi te l'ho parlato Ciccia, ma io te lo spedisco lo stesso, infatti mi ha scritto venerdì, oggi è domenica, quindi dovrebbe arrivare martedì o mercoledì, ma te lo spedisco lo stesso, poi se non ti va bene me lo mandi indietro, sì lo ritiro e basta. Ok. Mentre PL invece me ne ha messo 15 di quelli PL, non di bucigattoli che vanno a Sassari, quelli Alfano, me ne ha fatti pagare 5 euro l'uno. Sono rimasto tanto, non sì, sono quel tanto costa. Io ho preso invece il yen per come sul Ceplex per la X7000. Solamente un 40enne mi è costato più di 20 euro, ma sono di quel tipo per il Ceplex. Meno male, me ne servono solamente due. Sono uscito un patrimonio 40 euro, due connettori, vabbè, ma servivano quelli, altrimenti non potevo stendere il Ceplex. Certo che lui hai l'handicap di avere una calata maggiore rispetto a dove eri prima, dove eri prima era arrivato, invece di là ne hai molto di più. Vabbè, anche se si mette il capo buono, metti la camille a voglia, già va. Poi è uscito, lo stavo leggendo prossima, ascolta, un nuovo tipo di cavo, un po' più grossetto dell'L58, però ha prestazioni tipo Chesley, e deve rimanere morbido, e non costa neanche tanto. Boh, non so, Massimiliano. Ho visto che nella radiorivista c'erano delle offerte di casi. La radiorivista nostra, ma no, non ci ho fatto neanche caso se è quello. Cavi nuovi appena fatti, era sì, forse quello di... si assomiglia un po' al 59. No, variano grandi cose, perché le antenne vanno praticamente non sul lato dove erano prima, perché io prima lo scala G, adesso sono scala F, quindi sull'altro lato ci sono già tutte le staffe che avevo montato io, e praticamente dove avevo il palo con i dipoli avevo invertita, e quindi da lì io già ho preso le misure, sono 42 metri a cavo a discesa, quindi non ti credere che sia così. Tieni conto che qua ne ho 25 metri, quasi 27 metri esterni al poggiolo, più 3 ad entrare dentro, sono 30 metri, perciò non è che cambia molto. Va benissimo, ok, vediamo un po' se Antonio vuole dire qualcosa. Comunque siamo molto molto vicini in linea d'aria, e ho qualche, hai capito? Beh sì, quello alto alto si vede giallo. Sì, ho capito. Ebbene, in linea d'aria siamo vicini, sì. Si conferma, ma siamo vicini. Voglio. Ehi, chi è? Davide, ma trovo questa casa. No, ma... No, non sono passato ancora. Se ti riferisci a qualcosa, ancora non sono pronto. Lo telefonerò in settimana. Molto bella, Lui a volte sono quei microfoni. Sicuramente uno di quelli di M1000 è quello. Ma va bene 300. Non si sbaglia con M1300. Con M1300 non si sbaglia. Ma anche di M1000 va molto bene. Si è regolato bene, va molto bene. Ma M1300 è superiore alla grande. Guardalo in qualche cassetto di, forse non qualche, in un cassetto nuovo che l'avevo preso per il Superstar, per il 7000, e poi me ce l'ho staccato e l'avevo messo in un altro cassetto, e poi quando faccio mi prendo con le radio, mi metto tutto microfoni con microfoni e balle con balle, se no non prendo più un accidente. Conviene sempre segnarsi di mettere le cose a posto, apparato per apparato, microfono con apparato è suo e compagnia bella, dai. Lo so, tu c'è un cassetto, io c'è tante di quei microfoni, tante di quelle cose, per carità, no, sono abbastanza ordinato, so che c'è dentro qualche cassetto, però devo vedere quale cassetto. E lì già sto facendo anche quello, tutte le cassettiere con tutta la roba, sto facendo quello che ho potuto fare perché la tanta non è mia, è un po' così, però è abbastanza in ordine. Lì invece faccio tutto, sto facendo tutto Giulio. Anche questo non l'avete sentito Giulio, non volevo sapere a che punto era. No, non l'ho sentito io, non l'ho sentito, se no vengo le tiri. Allora, un attimo ci passo, allora prendiamo il caffè e vediamo a che punto è, che dobbiamo combinare, come gli ho detto, appunto il traslocco del radio col piano già finito, montato, spero che l'abbia messo in lavorazione, ma va detto di sì, e se no bisogna aspettare che sia pronto quello per portare poi tutto lì, ma dannaggio la va, non è un problema. Ma poi tu avevi montato l'antenna, forse sì. Sì, l'ho montata, sì. Io perché, dai, la fai, come fai, lì di questo. Porta i coci di 50 euro e ti porti via questo, io. No, lo sai cos'è Luca, che io se ne compro uno, non ne voglio tanto apparati aperti. Non mi prendo uno, mi prendo questi che ho e niente, ne tengo uno e basta, capito? Un altro mondo va, un altro mondo perché... Non è baracchino, non è baracchino, questa è un'altra cosa. Aggiungo altro. Già l'ha visto Luca stasera, non tacciato si sono aperti gli occhi qua. È quello che hai visto, poi un po' di mio uguale, quindi è spiccicato solo lì in più a 50 kg, dove sia? 50 MHz? 50 MHz, pardon, sto sbagliato. Sono uguale, perciò precisi identici. Lui, l'unica cosa che c'è in più di me è il box, mentre io ho l'amplificatore di antenna. Ma sono uguali, infatti quando io sono andato a casa di Franco, infatti il mio si è 80, ma io non me ne sarei accorto, ho guardato bene e c'è scritto nella mascherina si è 80, se no ti avessi messo la mano sul fuoco e non era un si è 80. Sono uguali spiccicati, te l'ha già detto Antonello, tu nel tastino dove c'è il box lui c'ha il tuo amplificatore d'antenna, perché lo spazio è quello, quindi non si poteva fare. Poi all'interno, anziché ha una scheda in più che è quella dei 50 mega, basta. Le radio sono uguali, precise, identiche, non cambia niente, nulla. Eiaia, comunque sono uguali, dai. Non sono uguali. Sono uguali, ma ripeto, io l'ho visto a confondere se 80, ma così è su quello che ha scritto, ho fatto senza per parlarsi con te, ricorda, aspetta, te lo leggo, scrivi un po' qua, a me ne frego, allora, Luca non puoi farlo, non c'è offesa ti mai dato l'offesa, se senza che parlassi con te, ricorda, c'è uno che fa il gentile, che se tarda darmi nel cretino, a uno di Statalove hanno, sono un educato come te, non dico dresto, io non sono mai stato smentito, date stanze con il tuo ruffianare. È forte, non noi, è troppo forte quell'uomo, per carità, è troppo forte. E vabbè, poverino, bisogna anche compattirlo un po', io quando lo vedo lì nella Roma lo saluto sempre, manda sempre saluti, e che mi ha chiesto di inserire nei contatti e lo butto lì una balla che c'ho la lista bloccata, se no me ne mangiano dai beto, non fa, capito? Non me lo piace tutto, se non ti sta sempre chiamando il PVT e non va bene, non va bene, io già non ho giocato di cascia prescriventi, quindi no, non va bene. Vado, Archime. Ci sono, mi sto ascoltando, tranquillo. E se seguono anche un po' il piccolino, chiedendo acqua e quant'altro, mi tocca seguire un attimino. Guardate, buona tanto sono in ascolto, tranquilli. Ascolta. Ok, va bene. Va bene. Sto facendo pure una cosa a Tonello, mi sono mitigato, con tutto. Le cose che c'è in testa, la vota, la droga, ma carità di Dio, sono la vostra più bella. Come fatto sei, vabbè, di sabato sei libero? Via, tutti i giorni sono libero io, capito? Non c'è problema, se ti serve una mano sono tutti i giorni libero. Quando vuoi, per Luigi, tanto già di parte me lo ricordo come si entra, però mi ricordo il resto. E boh, se puoi girare quando entri dentro nel vialetto, quello alberato, dal cancello piccolino, anziché girare a sinistra, giri a destra. Prima la scala G, c'è scala F, non cambia niente. Vabbè, c'è il nome di mia figlia nel campanello, non c'è più il nome mio. Comunque già ci sentiamo, ci aggiorniamo, già c'è il numero tuo. Ma per darmi una mano pure a montare le antenne, facciamo una cosa fatta bene. Perché prima lì sai che ho 40 metri, ero molto più grafico, nel senso che avevo più voglia di stare appeso, ma adesso con questi dolori che ho la schiena e balle varie, non è che ne abbia 6 gana, quindi tu che sei pratico non sai vuol dire niente, vado avanti tu da una parte e vado avanti dall'altra, magari mi sistemo quelle V e tu assembli le altre e così facciamo più in fretta, capito? E ti avviso io. Sì, va bene, non c'è problema, già te la sembro, non ti preoccupare, poi già è una buona zona questa. Devo fare anche la cosa a Fabio, ma Fabio boh, o non c'è quello, c'è quello. Stava fischiando, mai montato il mantovano di sopra, mi sa che ci siamo questi giorni a farlo. Allora fammi capire, sa, stavo passando l'altro giorno, ho notato che insomma tu non mi ricordo chi, no, ho fatto una massa a sta radio qua, solo mi scappano, perché? Io non ho mai fatto massa alle mie radio, mai, perché tu innesca. E infatti, per quello che io volevo, ero innesca. Ce l'avevo fatta, fammi capire. Qualcuno l'aveva fatta la massa. E molti hanno questo rientro di RF con le MC60, ma non è il caso di quella radio, perché è stata, perlomeno tutte le mie radio, quelle che io ho venduto, non ce n'è una che innesca. Perché all'interno Carlo mi ha sempre fatto, perché all'interno dell'ingresso dei Sivols c'è un ponte praticamente un filo della massa del microfono, quindi un filino proprio del microfono, che va sulla carrozzeria interna dell'apparato, quindi non è il tuo caso. Molti invece non sanno che si può fare dall'interno, passano questo cavo e tutto questo casino che fanno esterni, si attaccano al termosifone, alle cose. Perché magari nell'ambito di lavoro, nel piano che tu hai, dove hai le radio, c'è qualche interferenza anche dal computer, da altre radio stesse, da qualche piano in ferro, eccetera, quindi fischia per la sensibilità che ha, non per altro. Ma perché mi ricordavo, c'era qualcuno ha fatto una massa per il scappa. Luca Flipper. Però non prendo l'antenna sempre. Io ho tutto al massimo qua, guarda. No, adesso ho messo sotto la cina il microfono, più basso è là, no? Sì, ma è sempre forte, sempre chiaro, ma andava bene anche com'era. L'ho detto, se lo vuoi che spinga un po' di più, me lo dici, se no lo porti qua, che c'ho più spazio. Adesso tra l'altro c'è ancora più spazio. Te lo apro e do appena proprio un velino in più, ma non serve a niente. Sì, vai molto bene così. Scusate, ma l'avete rilanciato, perché mi ha affidato il telefono e stavo rispondendo al telefono. Ma te mi ricordi o no? No, vabbè. No, lo lasciamo così, ma no. No, c'è lo Smith che va, sai che è una belletta. Bene, bene, bene. Ma io mi sto ascoltando, un baracchino e... quando scalda... Va alla grande. Ok. Questo qua è tutto un altro mondo. Colpi non esistono. Sì, vabbè. Certo, che due tre cavalli che li sbattano. Non è mai come il baracchino, assolutamente. È tutta un'altra minestra. Se tu li sei circondato, Nel senso che c'è Pompugno, c'è Cantantenna, poi c'è Claudio, è un casino. Mi sa già. Invece se è uno di questo radio non hai problemi di niente, tu fai neanche per sogno, vai alla grande. Ti rimetti che c'è gente al baracchino, ma c'è un baracchino, sai che c'è gente, perché mi colpi. Cappa di rocero, adesso vediamo, vediamo un po' se riesco a vendere questi, ci facciamo anche un pensierino, dove sta il problema. Tutto è vendere questi, capito? Una volta vendo questo, io non ne voglio tanti, io, capito? Ovviamente c'è una bella vettura e basta, e le stazioni qui se non voglio, baracchino Sirio, no, capito? Uno come ce l'ho adesso io. Guarda, si saranno un apparecchio con la cifra lì, con MC60 è un affarone, non un affarone. Però devo vendere questi, capito? Ho trovato un angolino parecchio così con l'MC60. Di solito un apparecchio lì, tra l'anno 500 euro mi fa normale. Confermi qua. Sì, confermo, sì, tenendo conto che ci sono quasi 200 euro di microfono. Microfono all'alta fedeltà, naturalmente professionale. Quindi siamo nuovo sui 180 euro solo di microfono. Fai che ci siano 130 euro, insomma il microfono usato a seconda mano, il prezzo è quello, 120-130, perciò la radio è più che sufficiente, anche perché quella c'è l'accollatore automatico interno, quindi vai dove ti piace, hai 200 watt in banda laterale, hai 100 watt modulati in AM, AM/FM, cioè hai un altro tipo di apparecchiatura che ti consente di girare, fare, sapere, conoscere tutto quello che c'è nel mondo della radio, perché hai anche tutte le frequenze amatoriali, quindi sei un appassionato, un buon ascolto, insomma, si diverte anche a fare quello. Io mi terrei sì il Mobitom per la macchina, che non è molto ingombrante, insomma, un baracchino, l'altro lo mettere in vendita con tutte quelle cose che hai, riesci a tirare su una mezza cifretta e poi fai il sacrificio, ma lo fai una volta per sempre. Lo fai una volta per sempre. E ci è riuscito Luca pian pianino, un po' con l'aiuto nostro, insomma, mio, è riuscito a sistemare bene anche lui le cose. E sei, giustamente come hai detto tu, uno, ma buono, poi ognuno chiaramente è libero di fare ciò che vuole, nel senso che i baracchini servono sempre, sono sempre belli, se uno ha la voglia di crescere, di avere qualcosa di più serio, è giusto che vada su quelle radio, perché tutti i baracchini sono belli, ce ne sono bellissimi, di grandi prestazioni, ma quello, come le trucca, è tutta un'altra cosa, tutto un altro pianeta. Io baracchini non ne ho, cioè ce l'ho uno buono dentro l'armadio, ma è anni dentro l'armadio, non mi interessa manco tirarlo fuori e usarlo, col cane P3, con tutto, proprio una stazione completa di baracchino, ma non riesco a usarlo, prende tanti di quei colpi che non viene bene al dito. Poi dove sono adesso, magari spostandomi su nuovamente in montagna, non molto, ma qua non si può usare il baracchino, perlomeno nella mia posizione non posso usare il baracchino, ovviamente vai per terra, sono circondato da tutto, capito? Ok, mi sembra di sentire qualcuno che chiama qua in lontananza, vediamo un po' se è qualcuno che chiama qua in questo canale, vediamo. Ciao Natali, ti sento molto molto lontano, dove sei? Al tuo paese. Al mio? Sì. Non ho già arrivi, sei quasi 9 qua. Però basso di radio, non ti ho mai sentito così, basso di radio, segnale buono. Segnale Santiago 9 qua, non so se mi stai ricevendo bene a me. Però sì, va bene, come segnale va bene, la radio un po' più bassa del solito, là. No, va bene, non che lo senti a Natalino. Allora, Natalino. Sì, lo sento. Ma ti sento a 26.450. Allucinante. 24.50 di armonica o di splatter, no? Di armonica. Siamo qua, quando vuoi chiama. Non lo so, Lu. Non lo so, siamo a 27.015, strano, però. Non è la... Massimiliano, forse se ne ricorda, eh. L'intermedia. Massimiliano. 26.640, appunto 00. Chiaro, Santiago 9. Senti a Luca, ce ne senti a 26.640. Sotto multipli qua non ce n'è. Siamo 27.015. Allora, dimmi la frequenza, provo a ascoltare. 26.640. Vale, tu non me ne parla, provo a andare lì. Prova a vedere se è qualcosa sua o se è proprio un'armonica che è partita, una fisarmonica che vuole cantare da un'altra parte invece di cantare qua, ma è strano perché questa è abbastanza allineata come radio. Può succedere che scappi sempre qualcosa. Non avevo mai avuto questi problemi. Dimmi un po', Massimiliano, sto sempre parlando, vedi un po' se senti qualcosa, se è un problema di zona di Lucca. Se la fisarmonica anche partita con la chitarra? A tre ti sentivo, 3-4 come segnale. E allora c'è. Vedi, mi suona la porta. È una furia. Anche l'anguria c'è, ma sta la fisarmonica. E sono la polvere di questi giorni che ha accumulato questa radio. Vabbè, ma non è un problema, non è che siamo sotto. Vabbè, 26:40 siamo un assegno. Eppure facciamo un check-up a questa radio, lasciami lì. Mettiamo sotto strumento, vediamo cosa è successo. Ma non lo so. Avanti a te, Alice. L'anguria, la fisarmonica, la tua. È troppo tranquillo, questa luce c'è il tira. Sì, come è, dai. Ma basta pigliare di quel coso dei cinesi, mi. Di quelle spalle giocato, se no di quelle pile, mi, che fa la voce bianca, va bene lo stesso. Gli metti una distanza agganciata e a posto, durano. Se li metti pure di cambiarli. Sento, non c'è problema. di più, 2 e 3, capo. Sì, già adesso c'è il microfono sull'originale, perché il microfono per amplificati non mi piacciono, è una macchina che prende già tutti, tutta raga, ma così. E quindi, essendo normale così, va anche bene, dai. Ma tu con Pomone sei sempre? Con Pomone sarai. E vai a mangiare il timbrutino di mamma. E a me? Io dicevo con Pomone, cosa? Come si chiama? Falcone. Falcone lo dici? No, sono qua con la 25, ci abbiamo fatto un giro, poco fa eravamo sempre stati, vani, adesso ci mettiamo fermato, andiamo a prenderci un paio di pizze e via. Buona serata, buonasera anche la tua 25, la pensavo che di solo. Buona serata oggi, invece io stamattina ne siamo usciti, con Luca. Avevo riaperto una rotonda, incontrare un po' di amici. E niente, c'è una bellissima mattinata alla grande. E poi stasera sono congrulato praticamente, stanco molto. Sto mettendo a fare, non sono venuto a mare, non si può più camminare, anche. Fratello mi sono bruciato gli occhi. Vicino alla radio, ma c'è una torre allucinante, non tocco niente perché altrimenti faccio solo casino. Questo personaggio. Sì, vabbè, lo conosciamo già da tempo io, ma non ci siamo più visti. Vabbè raga, io mi allontano dalla radio, dai, che mi sposto un po' di roba, perché la mattina alle 8 devo salire su, prendere il furgone, lo lascio a toccare, scendere in garage, portare roba, e quindi adesso mi sistemo un po' di scatole. Me le preparo per domani mattina. Se ci siete vi ascolto volentieri, non spengo, vi ascolto volentieri. Se ci siete ci sentiamo più tardi, altrimenti vi auguro la più cordiale buonasera a tutti, buon fine domenica e salutoni ai vostri rispettivi. Il microfono va a Falchetto e da questo momento che mi allontano dalla radio, comunque se rimanete qua vi ascolto volentieri. A te Falchetto. Capo, saluto di Claudio, mi ha fatto piacere ascoltata, saluto a te, quella è familiare, e se coincide ce la riascoltiamo a dopo, avanti Luca. A dopo qua, io sono là, lo sai, e vabbè, tu voglio una cosa, di stamattina, aspetta. Ecco qua. Bene, sentiamo dopo l'altra, dai. Se attacchi la computer. E vedo un po' l'ugari, dai. All'inizio mi metto il capo volante perché l'avevo staccato per non stare con questo capo così. Vabbè, dai, pure lo riattacco al limite e ci sentiamo lì. Riprendete, cordialità nuovamente a tutti. Natalino, a te Michi. Ciao Clara, lo proseguo con tutto, stavo dicendo che qualche sta cambiando come la giorno alla notte, adesso sta arrivando un po' forte, anche più caldo, va bene, però sono attacco. No, arriva benissimo, non c'è problema, io non so se tu mi hai ascoltato sempre a me, ma io ti ascoltavo sempre perfettamente da quando mi hai chiamato. Stavo dicendo che sta arrivando una bomba adesso. Adesso ti ho copiato anch'io la tariffa. Santiago 5, Silanzia, sì, dai, radio l'opero 5, 3, 4, ma già ti capisco, vai. Ecco. Se non mi capisci buttaci tutto, capito? C'è stato un break, forse era Roberto Paolante. Il break. Sì, buona sera a tutti, ciao Falchetto, Natalino, Claudio, Luca e poi non so se ci sia qualcosa. No, ho ascoltato anche io, sempre forte, Natali. Prima di avere ascoltava a coso. Qua adesso in questi passaggi è alle 9.10, 9.15. Prima si è partito da 8 nel punto debole, fino ad arrivare a 9.15 adesso. Tutto bene comunque da parte mia. Avanti, vabbè, saluto a Claudio che sta andando via, già ci sentiamo. E che punto sei a proposito? Via Claudio, vabbè, ciao Luca, facciamo prendere a Luca e poi fa girare. Ciao Robert, mi hai sentito? Mi hai sentito? Aspetta, avanti, ok, prendi e fa girare. Saluto me Robert, mi hai sentito? Antonio Pantulio, dai, se ci senti le salutarete. Ciao Claudio, che è andato via, e buon giorno Roberto. Avanti Robert. Sbarrato. Ora, no, volevo dire uno scherzo, ma poco fa sono arrivato qua, scusa, mi sono dimenticato di salutarti prima. C'avevo un 9.50 qua stavi arrivando, non ho capito cosa hai toccato. Io? Adesso sei 9.40, ma prima eri 9.50, avevi mosso qualcosa. I watt sono. Aspetta. Cazzo mi sta fischiando. Cazzo 9.50. Mi piace. Fai la bravo però. Chiacchiavate, siamo troppo visti. Adesso ne ho due furti. E uno, e il terzo deve arrivare tra poco. Come, che quello sfascia tutti quanti. Come ti arrivo io, Robè, con le coordinate? Quasi 9.40. Sopra poco, ui. Le sentirà le matracche. A che cosa deve combinare? A non disturbarmi, amici, sennò ti ho buttato l'antenna. E sono passato nella zona tua stamattina, dopo l'ora di pranzo, stavo rientrando, e se ci passo davanti lì per vedere se si vede l'antenna, non sono riuscito a vederla, perché. Ma le finestre tue danno verso il coso dell'ippodromo, la parte di dietro. Non sono riuscito a vederla, ma si vede là fu. Vabbè, certo si vede. Ma no, non sono riuscito a guardare il cielo. Sì, no, ma non sono riuscito a vedere, cosa stava dicendo Luca? Ma perché? Ma perché tu? Gli ho chiesto se era, non era lì in zona Cotacielo. Allora lo c'entra lì con Roma. Perché io sono abito vicino al Cotacielo, ma la postazione mia è di fronte all'ippodromo, io apro la finestra e vedo l'ippodromo, ce l'ho a due vetri qua, ma è attaccata. Ma è vero, la quarta lì si porta l'ippodromo, è vero. Ma non sei sulla strada dell'ippodromo, quella di dietro, no? Fa che? Il palazzo tuo, da sulla strada dell'ippodromo? Eia! Ti è attaccato all'ippodromo, sei molto più lontano allora dal grattacielo, sei più vicino al muro di cinta dell'ippodromo. Ciò che è attaccato al muro di cinta dell'ippodromo. Ma l'antenna tua da dove si vede? Dalla parte della strada dell'ippodromo o dall'altra parte dove c'è l'assisa? Anche dall'assisa la vedi, vedi la punta, riesci a vedere le metà dell'antenna, per vederla bene dalla parte dell'ippodromo la vedi bene. La tua si vede che è la parte del tram. Allora adesso si ricava di corridori, a tu. Non mi fa nascondere, la mia ci vedi, vabbè. L'unica è in Canada la mia antenna, perciò non mi fa nascondere. Ma ce n'è un'altra, non l'ho portata l'altra a lui, vicino a te. La tua, senti, su internet ho fatto vedere un sito nuovo, tipo Google Maps, però è tridimensionale, che tu entri, ti giri, ti vedi la porta di casa tua, le scale, la moto parcheggiata, tutto vedi. Io sto scherzando, è allucinante, anche le persone vedi. Ecco, c'è la tipa nella via mia portando a passo il cane, di tutto si vede. Cioè, siccome avevamo chiuso i perfili, c'è il cartello, c'è scritto si riapre, guarda, c'è una definizione allucinante, riesci a vedere quello che c'è scritto nel cartello pure. E poi, quanto va mai? Aspetta, lascia fammi pensare. Ma comunque di Google, su mettere su motore di ricerca a Google, a me sembra si chiami Google Street, una cosa del genere, ma è spettacolare, Luca. Perché ci sono, c'è una specie di macchina fotografica che c'è, per dire, al centro della strada tua, tu ti giri su 360 gradi e vedi tutta la via, poi puoi andare avanti, puoi alzare lo sguardo in alto, come che stai guardando la strada. Guarda, è allucinante. Sono entrato io in casa di gente, per dire, la casa mia dove abito io, da dietro si vede l'angolo dell'antenna, tutte le parabole mie, tutto grato, poi ti giri dall'altra parte e vedi che c'è una tipa portando appresso il cane, la cosa più bella è la Platamona, c'è una tipa, una che conosco, buttando la mondetta, la macchina mia, tutto grato si vede. Sì, ma poi stavo dicendo che ti hanno campestato. Siete una banda di cuocuoni, per forza. Ma stavo dicendo? E chi mi ha campestato? Natalino? Ma non ho campestato, l'ho messa la parola, lo so. Ho detto che con questo affare qua, vedi, ho messo un Platamona, ho detto lui io, c'è la tipa che conosco a fianco a lui, buttando la mondetta, si vede, poi c'è la macchina mia parcheggiata, vedi proprio le persone a grandezza naturale. Vabbè. Dimmi com'è esattamente, così me lo cerco. Guarda, su questo computer me lo devo installare, siccome vuole installato, c'è tutto quanto per farlo. Dovrebbe essere, tu entra su Google e ci scrivi mappe 3D, tridimensionali, e poi da lì ti dice tutto quello che devi fare. Mi sembra che si chiama Street, Google Street, una cosa del genere, Street è scritto. Ah, no, sarà un programma. No, ma te lo fai in automatico, un secondo ci impieghi, fa su Google, entri su Google e scrivi mappe 3D e poi ti appare il mondo e cioè, ti scegli la zona, poi scrivi la via, scrivi per via, via Brunizzetta e ti, va, ti appare direttamente, scrivi via Brunizzetta a Sassari, se non vuoi andare a cercarti tutta la città, perché poi ti appare la città e puoi andare in giro con la città, però è bello anche per dire, se ti vuoi vedere una zona che non conosci, per dire, sulle antenne che ci sono a parte su, dove abiti tu più in su, ti vedi, guarda, è spettacolare. Mappe staccato 3D, scrivi Google e poi mappe 3D scrivi. Anche io, come sei arrivato? Sono a Sant'Orsola adesso. Come? Sant'Orsola. Cacchio di 9:20, e ricordo se fa dal 9, come vai? Non sono i giochi. Sono in mezzo dei palazzi, sono a Sant'Orsola, capito? Ah, non sei nella strada, no, pensavo fosse nella strada dove c'è Bricomè che hanno aperto. Un tempo c'era, l'ho già passato. Sono dentro Sant'Orsola, capito? Ah, ma carino, sei la bomboletta, facci sognare carissimo! Carissimo pacchetto! Sono tu anche la 25, Natalino. Sì, anche la parte sua, tu. Brava Rocci, capa, quanto cambiate salute. E allora, vabbè, dici qualcosa, Roberto? Ehi, arriva una cosa, è Antonello adesso con questa Turbo 2001, ma mi crepa a me. Provate tutte e due assieme. Quando ti arriva Antonello a te? 9:10, 9:15. 9:10, ma stai scherzando? No, no. Con la tenda grande ti arriva a 9:10, ma sei detto? Preso come sede. E io quando ti arrivo? 9:30. Pensavo che ti arrivasse minimo 9:30 a lui. È strano, cacchio. No, no, no. Prova, buco. Ah, che mi passa il dramato, ma già lo sai. Già una sta cosa, mi stavo dicendo 9:10, 9:10 i segnalini che arrivano dai paesi, cacchio. Io ho detto, a me mi sta arrivando 9:50, c'è un segnale allucinante. Sì, ma ci credo, ma non lo so se dipende dalla zona mia o dalla tua. Perché è abbastanza aperto verso di te, dai. Per me è più vicino, dai, non c'è problema, però pensavo arrivasse minimo 9:30 da te, e io ho detto da te ti arriverò 9:35, buh, vabbè, non c'è problema. Cosa volevo dire? Vediamo un po' se c'è qualcuno nel frattempo che vuole entrare, adesso nel canale 5 chi vuole entrare avanti. Nisba, riprenditela, chi c'è, Natalino, e poi facci girare per Luca, vai Natalino. Ecco, allora riprendete voi, sono la guida, che c'è un traffico della Madonna qua. Ecco, adesso sono i detto la placcamo è un vero mondo, la rotta è un vero mondo, sembravamo anche nell'estate, anche se c'è freschetto, ma niente, chi vira? Sì, già me ne sono accorto che questo è il traffico che proviene da Platamone, sa. Cappa, vai Luca. No, stavo cercando la sua punta. Vabbè. Sono a prendere in gola che passava. Vabbè, ora giù me la visitava. No, ma adesso mi aspetto, sono in Puglia. Oh, come l'ho più appassionato di computer. Nel senso... se non c'è cambiare cosa, devo servire, ora me la fotti più lontana. Scusate, ma rimando, il locco è bloccato. Ma il locco, va bene, ma sento che è un locco, vai. Hola. Oh, stacca, se non lo usi mai. Ma tu usi solo il PCT nel microfono. Ehi, perché tu il lupo? Pappa. E vedi. Se tu lo usi, poi si inchioda, Perché non funziona lui. Funziona non bene. Cos'è Natalie? Questo è il lock. No, il sente. Quello per mandare la patente è il sente. Sto parlando del microfono del 60, non dell'apparato. Ma sto parlando del sente, vedi? Anda bene meta. Il lock è per tenere la patente fissa. Ehi, ma sto parlando del sente. Ma funziona. 7.0.1.5.0.0. Ce l'ho anch'io la segretaria. Ma mio dice in inglese e in giapponese pure. Ce l'hai tu perché Natalia sei da fonese? Sì, io ce l'ho. Dai che adesso se lo prende anche Luca, il giocattolino. Mamma mia. Ehi, dai, scusi, ti schiando sto adesso? Adesso sta andando benissimo. Adesso ho attaccato il filo di rame dal barattino al primo sifone dell'acqua del sistema di autorizzazione. Almeno un fischio. Tacca, di volta, fischiamo. Troppo bello a parlare, mi ha avvicinato la mano. Da quella volta. Va bene. Sta fischiando di nuovo comunque, ma lui prima va a fischio. Metà di capischia. Che la microfono è? Che salta è? Attaccato al K. Attaccato al K, perché non si nota. Dicevo, mi sono aspettato il cavivo del 1060. Ma non ce l'hai il 60 perché tu? No. Il palmarino ce l'hai? Sì? Il microfono da palma originale. Ah, oh, quello l'ho regalato con un qualche altro, l'avevo piazzato. E l'ho cacciato lì. Stavo guardando un sito di radioamatori, cosa del genere, bellino. C'è questo qua, sta vendendo un 140 a 190 euro. Bello, l'unico problema, infatti c'è la fotografia, ha fatto due buchi nel coperchio di sopra per attaccarselo in macchina, per bloccarlo. No, la prende al volo quello, 190 euro. Guarda che bello anche esteticamente, non è rovinato. Poi c'è un altro 290, quello è un po' più usato, ma questo è bello, esteticamente è bello. Il coperchio basta cambiare, se si procura il coperchio, non è quello lì il problema. Se c'è 90 euro lì fa il che? Telefono è posizionato al volo. Ehi, procura le 190 euro. Ma vedi adesso piano, ora non passa la volta, se no se abbiamo un basso mezzo milione qua. Prendi la moto e ti copri quello. A casa mi vendo. Ah, quello a casa, bene. Lo scooter ti vendi e ti prendi subito la panica e poi lo scooter te lo ricopri quando vuoi. Sì, va. Sì, adesso pian pianino vedrai come sistemiamo le cose. Pian piano. È vero quello. Sì, sempre siamo solo apparati, allora non si va più avanti. Riprendi la batteria. 40. No, via radio, dimmi. 5%. Questo è quell'inter che sta in base, non so perché non mi cavavo piedi, Antone, ma ha fatto le regolazioni ieri, o, no, ma ieri concorso, con Massimiliano, e non mi ricordo chi c'era, perché era tutta manetta, adesso ho dovuto ridurre, le meno 80 l'ho messo un po' più su del minimo, dai, meno della metà, e ho abbassato il Mickey Gain dell'apparato a meno della metà, e così funziona, se solleva per appena il Mickey Gain, di solito c'è tutto, non si comprende nulla, la voce è chiara comunque. Sveglia, è perfetto, sei scendo forte. Ah sì, Luca, come sei tu che sei più lontano? Luca? Vabbè, non vedi più nulla. Natalia, come mi ascolti da lontano? Bene, sono in via Grazia Reta, aspetta. Pulita, radio 5, com'è? E 5, là. Aspetta un attimo che... La amplificazione, vabbè, no, questo è quello che mi porto giù al mare, a me, Natalia. Vabbè, meglio così, me lo lascio, ci metto il boosting che non lo tocco più questo microfono. Ci siamo affarati, la sala di Buffalo funziona, per mettere tutta la manetta, per quello che mi dicevate che non si capisce niente, sembra una tamburlana, ma l'aveva messo molto basso. Sta pagata, se lo ferma, no, il boosting e non tocca più nulla. Venga, volevo chiedere anche a Luca, che lui mi ascolta con una trappa. Luca, ci sei? Via, guardami qua. Com'è Luca a questa radio? Questo è l'M93, quello che ho messo la capsula del microfono del telefono, come mi hai detto tu, e la stazione base che mi ha preso nuova, che usciva una cagata sino all'altro giorno, ti ricordi? Adesso ho passato un bel, come mi hanno detto Massimiliano e mi pare Giuseppe, o chi, mi ha detto un po' meglio, è chiara comunque dalle parti tue, lui. Sì, sì, ho buona, buona, l'ultima. Va bene, come dall'altra volta è meglio. Ah, dai, continuo con l'altra adesso, dai, un attimo. Io passo un attimo le bianche, ragazzi, riprendo subito. Chi è volente a parte? Anche se c'è una roba qua, ma un pennellino a pulire la radio, non lo trovo. Questa più forte di radio. E... Non parliamo di potenza, di forza. Luca, dimmi un po' le tonalità, come rimane cupa, come intera? No, non può, dai, diciamo che quando vai più spinta, vai al microfono, beh. Luca va bene, dai. Un attimino, mi rimasto tranquillo, sto cercando un pennello. Un pennellino per pulire qua. Ciao, vediamo un po' che è arrivato, Antonello, qualche altro in bianco, e come si chiama? Natalia, ancora ci sei? Dove è andata? Vado a prendere la pizza. Ciappa, va bene. Vedi tra... Come si chiama, Antone? Eccomi qua, dai, sono qua. Non riesco a trovarlo. Acqua. C'era Claudio poco fa, salutato, manco un tempo di lì, ciao, era già andato via. Ma era come ci arriviamo vicino a Claudio, lo vediamo tutti i giorni, anzi lo sentiamo tutti i giorni. Già me l'ha detto, infatti quello che volevo sapere è novità. A te ti fai un poco male, sicuramente più di me. A me non mi ha fatto mai niente Claudio, anzi. Quando morivamo non ce ne... tanto tempo fa, lui era qui vicino, mai avuto problemi con lui, mai, perché non lo sentivo per niente, né colpi né cosa, anzi, parlavamo sempre, parecchie volte, non avevo lo stesso canale, oppure lui si spostava, no? Non c'era nessun problema, mai avuto problemi con Claudio, quando abitavo a Capolazzi io stesso, tranquillo, tranquillo sono qua. No, sto dicendo, sto scherzando, c'è una telefono. No, poi se usi apparati Siri, sì, non ho i problemi quando usi apparati Loffi, tutti gli effetti strani. A me mi è capitato un paio di volte, mi giravo 6-7 canali di Slack, sentivo, col grande, figurati se ci avessi avuto qualcosa di diverso. Appunto, per ancora, no, vai, usavo anche nel 2009, non ho mai avuto problemi. E quando usavo la FM500S non c'era verso. Io quando parlavo alla Benizia sentivo gli splatter. Un sacco di volte dicevo cose, lui mi ha sempre detto, cambia il baracchino, perché detto, va bene, no, ma poi glielo cambio. Sono andato lì con 1 milione in contanti e poi gli avevo dato un coso, un baracchino e un distrattore. Infatti sono già di bravo 2, oh. Mi sono ripreso di 80 da quel giorno, boh, mi sono dimenticato di avere conti. Sì, adesso stiamo parlando di altre cose. Quindi già va bene, già va bene. Ma per me magari se tu sei sul 5 e lui è magari sul 6 ancora li senti un pochettino, anche se c'hai apparati sofisticati, però se sei sullo stesso canale sicuramente devi attenuare, se sei in FM devi mettere l'attenuatore, quando attaccate tu e Falchetto in FM è allucinante, cioè lo Smith non si muove, anche attenuato rimane a fondo scala. Sai più di me questo, che in FM questi apparecchi qua raddoppiano, se uno arriva a 9.10 ti arriva a 9.50. In FM questo sono fatti così anche Luca, qua arriva a 9.50 alla casa sua e io la stessa cosa anche a lui in FM le cose sono diverse. A proposito, quando ti arrivo a te io con la tubo 2001? 9.40, tondo tondo. Comunque hai avuto un grandissimo miglioramento rispetto alla Grand Plane, infatti se per caso non vende come l'anno scorso la mini Grand Plane, mi busco un altro 2001 e me la porto giù. Che come le fare così? Ti busco una bella Turbo 2001, la base delle Grand Plane, li metti tra i radiali e li metti e basta. I radiali non devi toccare nessuna angolatura, perché io ho messo l'angolatura della Grand Plane e risuona benissimo. Quindi ti buschi quello che hai e tu sei a posto. Oh, io non sono un attimo, guarda un po'. Là. Qui c'è 9 più 25 qua. 9,20 tu, tondo tondo. Ehi, ehi. Sono con... là. 50 watt, quasi. Sì, 50 ce l'ha, tondi tutti. Stazionari è 1,5 senza l'accordatore, figurati, se metto l'accordatore scendono a 1,1. Devi contare che ho il palo è basso, quindi se dovessi mettere il palo sopra il tetto questa antenna avrebbe il doppio, mettendo le altre piatti radiali. Invece ho messo uno stilo di macchina e l'ho messo come radiale. Figurati, adesso già mi busco qualche altra cosa, vediamo un pochettino. Appena c'ho un minuto di tempo vado, mi piglio la miligrampia per VHF o per FM, va bene lo stesso, mi stacco la base da suo originale, gli metto quella del tubo 2001 e sono a posto. E mi sono fatto la tela per casa. Via, bene, bene. E poi andiamo a mangiare la pappa, io ce la so nel cane. Ma c'è tu il cane con voi? È qua a casa, giù c'è Mirko. E Alessia qui, Alessia è grande, Mirko è piccolino, siccome gli tira la roba addosso, ci ha fatto se gli mosicchia la mano come ha fatto a mamma. E la mamma ha mosicato la mano, l'ha aperta, la mano in due l'ha aperta, capito? Noi in due, gli ha fatto un bel po' di coso, gli ha preso va bene in pieno. Invece a Simona, lo stava accarezzando in piedi, ha preso la mosicata le labbra. Cos'è? Un lione, dice. È cattivo questo piccio, non lo so, ma è cattivo. A volte lo faceva anche a me, adesso ogni tanto già gli presento il coso, un pezzo di radiale a tirargli a fianchi, così si calma, sta 2 giorni, sta tranquillo, tranquillo, tranquillo, poi già. Capite, è fatto così questo, boh. Sacanea? Un piccio. Ma non va bene che tra le persone la musica, tanto meno la padrona. La fa così, non so cosa chiamano cane, ma è fatto così questo cane. Aveva fatto lo si gira tutti i giorni, non vuole che tocca a mia madre, non vuole che alzi la voce, è proprio fatto buh, è tutto strano questo cane, come il tuo padrone. Ma lo sei legato per caso questo cane? Ma l'ho già legato, che sempre è sciolto in giro per la casa. Ma esce anche fuori, cioè lo porti anche fuori casa o rimane sempre stato in casa? No, l'ho portato pure fuori casa. Il fratello no, lo lascia in casa dentro casa, capito? Sempre. Non lo porta quasi mai fuori. Però solo quando scende giù in campagna lo lascia libero e lo faccio girare. Io sono che lo porto a pisciare in 2-3 ore. Sembra un'autobotte, come va bene, dopo 10 minuti vai e piscia. Ma pisciate grandi, non piccoline. Mi sembra che c'è un'autobotte a posare per un coso. L'acqua di renale sicura la diuretica, vedrà. Sì, l'acqua di renale è come l'acqua diuretica, la cosa del gioco, quella del rubinetto. Capo, vediamo Natalino, se è rientrato a Natale, se ci sembrate un colpo. Vediamo se è rientrato qualcuno, attenzione al canale 5, a chi vuole entrare o rientrare avanti. Cosa rientra? Adesso sento io in camera, dove c'è Simone, che Simone è tagliato, ha detto stavo alla televisione, il cane si mette vicino. Io come entro dentro, mi avvicino a lei, subito lui va a mossicare, capito? È fatto così il suo cane. Ma se fai finta di picchiare a qualcuno di quelli che si gira? Ah no! Da giù dai su cane. Si gira, non si gira, si gira. Ma di chi vengo io, gatto, lo distruggo quel cane, gatto, con le scarpe antifortunisti che lo perseguito. No, quello delle scarpe antifortunisti che la carina a coso. Devo io pisciare i tubi, era che... Un giorno avevo presentato a Gianni, e detto Gianni che questo cane fosse cane scappa, oh, non mi guardi nulla. E detto Gianni gesticolare che questo ha fatto in quarta. Tutto un tratto piglia, si mette a gesticolare, gli si aggancia il cane alla scappa, non viene con l'acqua a volare. Lui si voleva la scappa e il cane agganciato. E con le ratte? Vabbè, se ce n'è ancora, buona lettizia Natale. Non avevo ancora assaggiato, sono andato solo a prenderle. Allora, sì, noi mi avevo mangiato un pezzo avanzato da ieri. Mi ha aiutato qua, mi ha aiutato io a tracca, l'ho scaldata e me la sono mangiata poco fa. Io l'ho appena presa, mi ha rasse, mi ha preso e le divoriamo. Buon appetito. Grazie. Ave da mangiare, mi fa marisola. Ciao, io Marie, buonasera. Buonasera a tutti, questa fame, oh, già ora è, sono già le 8:15 subito. Comunque, buonasera circolare. Ciao Giovanni, stavo guardando l'orologio qua, non so, le 7:15, perché non ho aggiustato l'orologio, che cazzo, sono già buio alle 7:15, invece l'orologio quello so, le 8:15. Sì, adesso alle 8 è ancora il giorno, così che... vabbè, più bene, va, vai, un orario bellissimo. Sta lì, tu com'è la pizza a me? E se ti ne ha dato, che ne hai? Che te l'avevo mandato? Poco, vai. Vai, poco, ma se non ti ha visto? Adesso mi si scelta l'orale, già. Cazzo, la scena, sei proprio un cuocone, sì. Lavorare lui lo vale. Sì. Le mie 6 ore non lo fai lavorare. Cioè, le mie 6 ore. E 6 ore devo rimanere lì. Vabbè, dai, già c'è meno freddo di qualche mese fa, del mese scorso, ma tanto le temperature sono un po' più sopportabili. Se ti capitava periodo quando c'era la neve il mese scorso, uia. Vabbè, mica scemo lo fa. Magari con la pizza con la testa, insomma. Vabbè. Non lo veda. Tu, calate la mentà, se devi farlo se non devi farlo. Cucco. Fatti lo tu. Io la lì sono alla bettoliera. Ma intanto io non ho mai di puni sull'impatto, così è, ma grosso. Venivo, tanto venivo, vabbè. Allora, quando ho smantellato, vabbè, ho portato via, diciamo, più della metà di pavimento, perché più della metà, cioè meno della metà si è staccato, sono le macchine, e in più tutto un mazzetto un anno bucato da sotto, avevo fatto solo 20-30 viaggi. Caravaggio, io che ne è entrato poco di mazzetto. Sembrava una sacca, sembrava, ragazzi. 9.20, 9.25, boh. Non è quando la trovare. Eia. Ah, io pensavo che stavo dicendo la M qua, nei canali normali. Ma la trovo, io non so che arrivano forti. Arrivano forti anche qua a casa, figurati lì, lì c'era un sacco di popolazione bando laterale. Io non stavo dicendo la M a volte capita a me. Arrivano squadri di popolazione strana. No, lì sono tutti in manda, sono, capito? Su quanto ce n'erano, ah, poi se la fa rendita, tu, la si muore tutto e mi sono cantato, ma cosa lo fate, ragazzi? Hai fatto, e allora, a far rendita, tutti, da poi si può chiamare tutto un pare, non casino niente. Ce n'era uno, cazzo, 9.40 arrivavo, guarda, quello era fortissimo, cazzo. Madonna, però era con la direttiva, Mi aveva un chilo fatto davanti. Sì, lo vado tu, se metti un chilo fatto lì, non dico che c'è questi baracchi di Mario, che si accendono tutti lì. Quindi sono quartiere e con una panina almeno per funzionare. Sì, ma non conviene questo, per carità, no. Ah, oh, normale, massimo 15 watt, boh, non di più, ecco, boh, già va bene, non sai come arrivi benissimo, o 15 watt, tante chitarre sono, se c'è la propagazione buona, anche un 4 watt e fai 10 se non finisce mai, e poi il manda, lo sai, che raddoppia, per cui, che è sempre di quelle 15, 18 watt ci arrivi benissimo, capito? Io lo so, già, sì, una volta no, che una volta facevo tutti i chiudi di ex, e poi sono stato fatto, quando c'era la popolazione italiana, piavo il chiavo per il culo e ce li mandavo tutti a cagare. Sono che ne cattivi sto là, ma aspetta, Faccio. Ah, se picchi ragazzi che mi sta parlando. Ciao. E quando aumento mi dà picchi negativi, perché quando diminuisco allora mi dà i picchi positivi. Ho messo 8 e allora mi dà i picchi negativi. Un attimo. Picchi positivo o negativo da te, Antone? Antone? Sono qui, ho fatto un giretto, sono venuto c'è la Spagna, c'è. Là ci sono, ci sono, se vai su, più su vai, più ce ne sono dappertutto lì. Come sono i picchi, positivi o negativi da te? Positivi. Ok, vabbè. 27.635 è pieno. Sì. Oiaia. Dice che sei rientrato Roberto. Vabbè, è rientrato, sì. O si mandi o mandi che ne può due. Ehi, Roberto, verso la caretta. Non è buono. Roberto. Sa che lei va a mangiare qualcosa e c'ho fame. Ci sentiamo fra un po' da. E anch'io chiedo, anch'io me ne vado a mangiare. Domani se coincido, dai, chiedo tutto. Ciao, buonanotte, buona cena, ciao. Ciao Giovanni, accanto, ciao.